carissimi, e la puntata di oggi ci porta su un argomento molto interessante, molto discusso, molto conosciuto, che è quello dei test. Ah sì, i test. A te piacciono i test, vero? Fin dalle scuole elementari li hai sempre amati, lo so io. Ma insomma, ti andavano male, ma insomma. E beh, diciamo che però adesso nel 2016 dovremmo aver superato il discorso dei test come uno spauracchio, come un nemico. Assolutamente, io ricordo ancora con piacere quel libro Test Drive and Development, che bello, sì, personalmente mi ha aperto un mondo. È così, cioè, adesso sappiamo che i test aiutano la produttività individuale e anche di gruppo, aiutano a definire delle interfacce migliori perché sono basate su un utilizzo vero, sono pensate da un utilizzo. E poi consentono di fare codice più robusto perché è più facile individuare delle regressioni altri punti. È successo più di una volta che ci salvassero. Sì, quindi non parleremo tanto dell'importanza dei test nello sviluppo del software quanto della loro declinazione in ambiente microservito. Perciò, okay, come sono questi test, quei microservizi? Non cambia di tanto per incominciare. Naturalmente sono un po' più complicati perché abbiamo capito che l'ambiente è più diffuso, quindi bisogna organizzarci in modo diverso. E qui davanti a me ho la slide numero 2 in cui vedo la piramide di Mike Cohn dei test, che forse avete visto, è pubblicata in tanti libri. È un triangolo. Sì, la rappresentazione in particolare di questa foto è notevole. E l'ho disegnata io per quello. Va bene, comunque immaginate un triangolo. Alla base avete i test di unità. I test di unità sono il numero maggiore di test che si faranno. A metà di questo triangolo abbiamo invece i test di servizio. Poi spiego cosa intendo, ma diciamo testiamo il nostro servizio in isolamento, per capirci. Sulla punta della piramide abbiamo i test di Cohn li chiama user interface, sono i test end to end, quelli che ne abbiamo già parlato in un altro pod. Allora, cosa ha di bello questa rappresentazione? Allora, prima di tutto ci dà la misura della dimensione, della cardinalità, quindi per un'applicazione come le nostre, diciamo, si possono avere migliaia di test di unità, centinaia di test di servizio e difficilmente arrivi a 10 test di user interface. Okay. Questo è proprio per capire che numero sono. La maggior parte dei test che scriveremo saremo di unità e anche di servizio. La cosa bella di questa rappresentazione è che più sali verso l'alto, più lo scope, cioè la superficie testata, aumenta. Però più aumenta la superficie testata, più i test sono lenti, cioè per eseguirli ci vuole più tempo, per capire dove l'errore ci vuole più tempo, perché la superficie testata è più ampia. Di buono c'è che aumenta la confidenza, cioè tu puoi essere sempre più sicuro che il tuo sistema funzioni, più sali verso l'alto, il contrario scendendo. Mi viene anche da dire, non so se sto anticipando qualcosa, che più sali verso l'alto più aumenta il costo della produzione del test stesso. È così, sì, infatti così. Ora ne parleremo, ma ci arriviamo subito. Allora, i tipi di test rappresentati per scopo, dicevamo, sono i test di unità, che tipicamente testano una riga di codice, non so, un metodo. Sì, dai, diciamo un metodo. Sì, che è una riga di codice. E un test di servizio testa il nostro servizio. Il test di UI, insomma, è il test end to end, ne abbiamo già parlato, significa testare tutto il sistema insieme, unito, già collegato insieme. Un test che è come se fosse quello dell'utente finale. Come di un utente finale, perché sei collegato al database, tutti i servizi parlano l'uno con l'altro. E stai usando proprio l'interfaccia dell'applicazione. Eh sì. Mentre sì, il test di unità e di servizio, diciamo, prendono delle scorciatoie. È vero, infatti è così. Quindi i test di unità e i test di servizio sono i più diffusi perché prima di tutto funzionano in isolamento, dicevamo, vale a dire che il nostro servizio non è collegato agli altri, quindi non è collegato né alle dipendenze, cioè tutti quei servizi che il nostro servizio chiama, non ha neanche un client da quell'altra parte che lo sta chiamando, ok? Sì. Come si fa a realizzare, visto che noi in un ambiente microservito ci si aspetta di fare dei servizi, ecco, come si possono realizzare questi test in isolamento? Fortunatamente non siamo i primi, presumibilmente siamo gli ultimi o tra gli ultimi, penultimi. Quindi abbiamo già tutta una serie di ambienti. Quando parlavamo di contesto specifico abbiamo già parlato del Customer Driven Contract. Ah sì, il famoso CDC. CDC. Questo Customer Driven Contract vuol dire che il test è verificato in base al contratto. Quindi sul lato delle API e del modello esterno viene verificato l'aderenza del tuo servizio al contratto. Ok, cioè, il servizio solo oltre a garantire una certa interfaccia mi garantisce anche un certo comportamento. Un certo comportamento. Dall'altro lato, dal lato delle dipendenze, invece si provvede come al solito, quindi con degli stub o dei mock. Ok. La differenza la conosciamo, possiamo ripetere, uno stub è un pezzo. Lo stub è l'evoluzione dello stub. Sì, è lo stub, certo. Ok, grazie. Allora, lo stub chiaramente replica il funzionamento di una tua dipendenza. Sì. Ok. Il mock è uno stub, però conta le chiamate. Cioè conta, verifica che il tuo servizio lo chiami tante volte quanto gli hai detto che debba essere chiamato, che i parametri passati siano quelli che avevi detto. Ah, ok. Quindi tu dici, io sto facendo un test di servizio e invoco la chiamata get carriera studente, sì, che è una tua dipendenza. Che ha una dipendenza, quindi io mi aspetto che questa chiamata generi poi due chiamate su un certo un altro servizio esterno. Con questi mock, come dici tu, io verifico anche che dichiaro. No, tu dichiari che il tuo servizio, quando chiama, che operazione hai detto che chiamavi? Get carriera studente. Che chiami get carriera studente 4 volte nel corso dei test, sì, e che lo faccia passandogli certi parametri specifici. Sì, okay. Non va a guardare ulteriori dipendenze. Perché avevo inteso così. No, è che si aspetta di avere quelle 4 esattamente chiamate. Esattamente. Ah, okay. Lo stub, o stub come dico io, lo stub invece è più, un po' più rozzo, insomma, semplicemente ti fa fare quelle chiamate e ti restituisce qualcosa. Okay. È un sistema di, sì, di verifiche un po' peggiore. Meno evoluto. Meno evoluto, insomma. Comunque dicevo, ci sono molte librerie che ci consentono di fare questo tipo di test. Per esempio Mountebank, qui ho scritto PAC, che è fatto da Real Estate, che abbiamo già citato molte volte. PACTO invece, che è fatto da Softworks. Poi ci sono Fowler. Sì, ce ne sono tante altre, cioè ad esempio WebMock, UCR. Sono tutte generalmente fatte per linguaggi di scripting, quindi ad esempio tipicamente in Ruby. Ce ne sono anche per Node. Comunque, insomma, voglio dire che fortunatamente sono già pronte. Ad esempio, molto velocemente, PACTO ti consente prima di registrare una conversazione e poi di replicarla, così come anche VCR. Quindi per velocizzare la fase di creazione dei test. Sì, per esempio, tu chiami il tuo servizio dipendente davvero, PACTO registra e poi lo utilizzi con servizio, cioè ti semplificano queste fasi sostanzialmente. Sì, diciamo un po' come fa Selenium con proprio l'interfaccia utente. Sì, è proprio così. Bene, andiamo avanti. Allora, i test di unità, arriviamo al vertice della piramide. Questi sono proprio pochi, dicevo meno di 10, tipicamente 4-5. I test pochi dell'interfaccia. Dell'interfaccia, sì. Perché? Perché sono veramente. Allora, noi ne abbiamo fatti diversi. Come sono questi test? Una pena. Una pena. Come tutti i test, ma più sali, più vuol dire complesso. Soprattutto la manutenzione. La manutenzione. Sappiamo. Sono lunghi da scrivere, lunghi da eseguire, quindi non li puoi, cioè non li puoi lanciare prima di ogni messa in produzione. Magari li fai girare una volta a settimana, perché sono veramente lunghissimi. Sono ancora più lunghi da mantenere, come dicevi, perché ogni volta che cambi un pezzo di un qualsiasi pezzo dell'applicazione finisce che devi riregistrarli e rifarli. Sono flecchi, cioè a volte rilanciandoli dopo un fallimento lo rilanci e funzionano e non hai capito perché. E questo ti toglie completamente fiducia nel test, cioè ti rendi conto che non stai facendo niente di fantastico. Proprio perché, per il fatto che stanno testando uno scopo molto alto, sono difficili da capire poi dove è l'errore. Se si è fermato, cosa è successo? Non è un errore di rete? È un errore della nostra applicazione? Dove lo vado a cercare? Cioè, diventano complessi. E mentre parli mi viene in mente anche difficili proprio da creare, ad esempio, siccome stiamo parlando di un test dell'interfaccia, io sto testando un caso d'uso, avere pronto, diciamo, tutti i dati per ricreare quel certo caso d'uso a volte non è così banale. Sì, sì, è vero. E anche perché il test deve girare sempre su quel dato, insomma, la condizione del dato deve essere ricreata. Cioè, stai dicendo, ad esempio, se vado, faccio un test per modificare i dati di uno studente, quello studente ci deve essere, e se poi non lo trovo più nel database. Ci deve essere lo studente, deve essere nelle condizioni, magari a seconda poi del tipo di test, nelle stesse condizioni che erano pensate nel momento in cui è stato pensato il test, perché se nel frattempo lui ha dato un altro esame, può darsi che a quel punto il mio test fallisce. Certo, ma falliscono sempre, cioè qualsiasi modifica interna o esterna portano al fallimento. Insomma, non offrono grosse garanzie, non so come posso dire, sono veramente costosi e non offrono garanzie, cioè non ti garantiscono che tu in produzione non fallirai. Allora, il ragionamento che è stato fatto da dei manager, immagino, più che da degli sviluppatori, da progettisti, è questo: se non mi garantiscono comunque il funzionamento in produzione, e poi in produzione comunque devo perdere tempo per trovare l'errore e risistemarlo, perché fare tutti questi test di unità? Tutti questi test di user interface end to end. Molte aziende si domandano il test di, cioè, diventa un discorso di economicità, esatto, dice, non costi benefici, sì, non vorrebbero neanche che questi test ti dessero una falsa sicurezza che tu non puoi avere. Se tutto il tempo che ho impiegato nel fare e mantenere questo test io invece lo impiego per essere reattivo velocemente in produzione quando c'è il problema, che tanto ci sarà comunque il problema, non è meglio? Questa è la risposta. Messa giù così, io ti dico assolutamente sì. E quindi molte aziende, tutte, impiegano molto tempo invece su sistemi di consegne di test diversi, che ad esempio dei rollback veloci, il Blue Green Deployment, che abbiamo parlato in un altro podcast, e il Canary Release, che trovate nel podcast relativo ai deploy. E quindi non li stiamo a ripetere. Volevo però concludere, abbiamo poco tempo ancora, e volevo concludere parlando di altri tipi di test molto velocemente che tornano utili nell'ambiente a servizi. Sì. Sono gli smoke test, che sono fatti per testare un servizio appena l'hai deployato, cioè per verificare se il deploy è andato a buon fine, più che le funzionalità interne, cioè per verificare che che in effetti il tuo servizio sia su, sì, non solo formalmente. Generalmente è offerto dalla PAS questo tipo di servizio. Sì, diciamo dai sistemi, è una cosa che tipicamente è sempre stata in carico ai sistemi. Sì. Magari ti si chiede, dimmi qual è l'URL che devo chiamare per capire se l'applicazione è partita, tutto quanto. E quindi il termine più corretto è smoke test. E poi ci sono dei tipi di test che si occupano di requisiti detti non funzionali, è un brutto termine, sarebbe forse meglio requisiti trasversali. Ma comunque sarebbero la latenza di una pagina, gli utenti massimi, l'accessibilità, la sicurezza dei dati. È chiaro che un sottoinsieme di questi test sono test di performance. Esatto, infatti stavo pensando proprio questo. e comunque sono cose che non vengono eseguite automaticamente o... Sono sempre test automatici, perché qui parliamo solo di test automatici. E sono test che andrebbero svolti, si raccomanda di svolgerli fin dalla prima fase della produzione, quando magari non hai ancora niente. Come pensi al test per lo sviluppo, pensi anche al test di performance, di carico ad esempio, per non ritrovarti alla fine a dover cambiare tutta l'architettura sostanzialmente. Ma questo è uguale, cioè è come sempre stato, anche senza i microservizi. Ok, so che vorresti chiudere, però questa cosa che dici mi incuriosisce molto, quindi io ti faccio un'altra domanda. Dai. Posso provare a intuirle, ma vai pure. Allora, mi stai dicendo che questi test di performance devono essere automatici? Sì. Mi sta bene, quindi io li prevedo già nel mio ciclo di sviluppo del software, però sono a tutti gli effetti dei test di carico? Sì, sono dei test di carico e... A volte servono anche per verificare come scala la pass, perché molte pass scalano male, cioè scalano sulle basi di indicazioni sbagliate, per esempio sui picchi. Se sono basati sull'utilizzo della CPU non dovrebbero guardare i picchi, ma la media. Molti invece guardano il picco. Quando il picco supera un certo livello, tirano su magari una valanga di pod che non servono. Però questa cosa mi accende una lampadina, mi dice: se io, come sappiamo, non ho, come abbiamo detto, non ho un ambiente di test, quindi la mia applicazione è sempre deployata in un ambiente di produzione. Ah, certo. Se faccio dei test di questo tipo nelle mie versioni da testare, insomma, non ancora pronte per la produzione, vado ad aggiungere del carico proprio nell'ambiente di produzione. Sì, assolutamente. Questo vero. Potrebbe questo causare problemi. Molto, sì. Come l'hanno risolto? Allora, quando parlavamo del deploy di test, lo scorso podcast. Bella puntata, molto bella. Chi non l'ha vista, io la consiglio vivamente, perché ma non si vede. Sei troppo tenuto. Io sinceramente me la sono immaginata quando l'ho sentito. No, vabbè, dicevo che gli ambienti, l'ambiente di test e quello di produzione devono essere il più simili possibile, e molti addirittura vanno direttamente in produzione. Ma stiamo parlando di aziende che hanno moltissimo ferro, moltissime macchine. Lame, come li chiamano i nostri amici dei sistemi. Che salutiamo. C'hanno le lame. Che salutiamo, so che ci seguono anche loro. Ciao ragazzi, ciao. Anche dal Sud America, ho saputo. Sì. Vabbè, e quindi non hanno difficoltà a avere due tipi di macchine. Cioè magari sono nodi diversi della stessa pass. E questo sarebbe un buon modo per risolvere il problema che segnalavi. Se uno non ha questa possibilità, potrebbe svolgere questi test in produzione, ma in momenti dove non hai del picco. Ah, ok. Quindi magari nei weekend, la notte, non so. Cioè sono automatici, ma non è che scattano ad ogni... No, sono automatici perché si svolgono in automatico senza bisogno di un utente. Okay. Però non seguono ogni build e non ogni messa in produzione. Quindi tu dici: io la notte prendo l'ultima tra le build del giorno, sì, e ci faccio sopra un test di carico. Considera che non hai una build, hai un fan out di diverse build, cioè tutto il tuo ecosistema di servizi che viene dal server di continuous delivery, viene messo su queste macchine appositamente per fare il test, oppure sulla produzione, come dicevamo, e poi questo gira quando deve, quando è il suo momento. Così come i test di unità non girano ad ogni deploy, i test, mi sbaglio sempre, invece quelli di unità, quelli sempre, come ci ha insegnato quel fantastico libro, quelli sempre. Ok. E sono quelli che gira, che ti danno più, cioè sono quelli proprio che ti salvano più delle volte. Sì, sono quelli proprio più vicini al codice. Sì, sono facilissimi da trovare l'errore, perché testano una riga, quindi se c'è un errore è lì. Va bene. Bene, ti ringrazio molto. Grazie a te. Spero che proseguiremo questa nostra joint venture, speriamo, di produzione di questo podcast, che ha già tantissimi ascoltatori. Ah, sì, veramente. E vi chiediamo per favore di non mandare più ceste con cibo, perché no, sono troppo, grazie. grazie del pensiero, ma diventa uno spreco a un certo punto. Sì, sì, non si può fare. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.